All'estero non ci invidiano solo la buona musica, ma anche le nostre eccellenze culinarie, come il caciocavallo di Grotta Deliziosa, premiato in tutto il mondo e realizzato con latte crudo pugliese modellato a mano e stagionato in grotte naturali. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Per la serie Michela Giocacose, che ritorna, ritorna dopo tantissimo tempo. Oggi vi parliamo di un giochillo, un videogioco. Intanto salutiamo Walter che è arrivato dormendo, però è arrivato. Vabbè, meglio arrivare dormendo che arrivare. Vabbè. Comunque, Little Miss Fortune. Allora, adesso vi faccio una piccola introduzione, poi Michela ci dice la sua, perché abbiamo deciso ogni tanto di fare questa cosa. Faccio giocare a Michela dei giochi, diciamo, narrativi, no? Che lei possa, insomma, gestire con la sua abilità da ictus. Infatti questo l'ho gestito bene. L'hai gestito bene. Vabbè, qui è difficile. Ricette di qua, ricette di là, poca esatto, roba, bravo, quindi bravo, mi è andata bravo. Bene. Comunque, parliamo di Little Miss Fortune. Che è un'avventura grafica horror psicologico. Vabbè, poi vediamo. Kill Monday Games è lo sviluppatore, sono due ragazzi, marito e moglie, che poi tra l'altro lei è quella che dà la voce anche a Miss Fortune, e che hanno già fatto un'altra avventura grafica, si chiama Frambo, molto tosta, insomma, diciamo, forse questa è tosta uguale ma alleggerisce molto di più. È stato edito da Handle Bundle il 14 marzo 2019. Allora, di che parla? Parla di questa bambina di 8 anni. Vai. La trama? Sì, la leggo. Sì, vai. Allora, Little Miss Fortune è una bambina di 8 anni che vive con la sua malvagia matrigna. In realtà lei dice che è la madre, però magari sì, può essere che non è. Sai che mi ricordavo pure io, infatti, che era la madre. Però e un giorno Miss Fortune incontra Mr. Voice, una figura misteriosa che le promette di realizzare il suo desiderio più grande: incontrare la regina della morte. Miss Fortune, io manco questo ho capito, che devo incontrare. No, in realtà lei cercava l'Eternal Happiness, insomma, quindi chi è che ha scritto sta scheda deve morire. Vabbè, sì, dai, facciamo noi che è meglio, intanto. L'unica cosa che posso dire su questo gioco, che adesso magari Michela vi racconterà un po' quello che ha capito, ma soprattutto vi racconterà quella che è stata la sua esperienza con questo giochillo, che insomma si presenta come un cartone animato puccioso, ma poi alla fine c'ha dei vari risvolti. Tra l'altro, non spoileriamo perché Deborah deve ancora giocare, infatti non parliamo di, cioè, non spoileriamo, diciamo quello che c'è sul trailer. C'è sta bambina che a un certo punto, per un motivo o per un altro, interagisce con questo personaggio che è Mr. Voice, che le fa intraprendere un viaggio. Sta passando la fanfara di Sant'Antonio. E vabbè, non ci frega niente, insomma, non distraiamoci per ogni 3 secondi. E praticamente questo viaggio glielo fa intraprendere facendole fare delle cose con la promessa dell'eternal happiness, quindi della felicità eterna. E il gioco è completamente in inglese, compresi i sottotitoli, non ci sono, però è un inglese assolutamente comprensibile, un doppiaggio molto bello tra l'altro, e con i sottotitoli in inglese, se dovesse sfuggire qualcosa, perché lei in fondo parla come una bambina, quindi può pure succedere, insomma. Ecco, Michela, allora parliamo di questo gioco. In realtà lo consideri un horror psicologico? No, in realtà Little Miss Fortune sono io. Secondo me loro hanno conosciuto me a 8 anni, e poi come ero 8 anni perché è, e poi hanno fatto Little Miss Fortune. Sì, io non lo direi troppe volte questa cosa, però sì, nel senso che però sono, cioè, nel un pochino senso, sì, maldestra un pochino sì. Con cui i capelli un po' voluminosi, sì, pipì, sì, e caschi dappertutto. È vero. Sì, la fanfara sta passando qua, adesso hanno finito. E non ho capito perché devono passare davanti a casa nostra. Comunque, forse c'è qualcuno da onorare. Comunque, praticamente il gioco a me è piaciuto molto. È un horror psicologico, secondo te? Horror, non lo so, sì, c'è comunque questo sottofondo, questo senso di tristezza. Oscuro, un po' oscuro, di dai, tristezza. Però più che horror psicologico, io direi c'è questa malinconia, cioè si sente questa malinconia, insomma, di questa bambina sola. cioè si sente molto la solitudine, si evidenzia molto la solitudine, mm-hmm. Il senso di solitudine. E poi vabbè, non voglio fare spoiler, niente, quindi, no vabbè, comunque però, allora lo consideriamo una commedia oscura, una commedia, commedia dark, dai, cioè, una commedia dark, sì, perché comunque dai, ci sono delle cose pure abbastanza carine e molto fuori da testa. Mr. Voice, bellissimo doppiaggio di bellissimo, Mr. Voice, una bellissima voce in realtà, e anche bellissimo doppiaggio, sì, anche lì del Miss Fortune, cioè questa voce, beh sì, perché lei poi è la moglie dello sviluppatore, una bella pronuncia in inglese, entrambi facilissimo da comprendere. Beh, lui si sente che è un doppiatore professionista e sì, lei è, cioè nel senso magari è più facile, fa la voce di bambino, capito? Sì. E che posso dire senza spoilerare? Che no, comunque il a me, al di là della trama, no, che quindi non cerchiamo di spoilerare, al di là della trama, le cose, le prove sono facilissime. E quindi c'è il gioco di per sé, prova di Michela. Esatto, il gioco di per sé esiste relativamente, no? Come abbiamo fatto con South of the Circle, sì, cioè alla fine è comunque una storia narrativa che tu accompagni, ovviamente non è che c'è tutte queste particolari difficoltà, però sono i tanti strati di lettura, perché alla fine c'è sta Little Miss Fortune che attraversa praticamente questo percorso, questa sorta di odissea, incontrando situazioni assurde, e poi tu devi cercare di capire quanto poi è cioè nel senso anche un po' nella testa, insomma, di sta bambina. Ah, tutto sì, quello è che vero, succede, è vero, è vero. Diciamo che inizialmente non te lo chiedi, nel senso che piano piano. Cioè, comunque cioè alla fine sei molto portata a seguire il suo percorso e ti fai poche domande, devo dire la verità, però ci sono dei sentori, delle cose che poi almeno per quanto mi riguarda, delle sensazioni che ci ho avuto all'inizio sulla trama, che poi in qualche modo si rivelano tali. E diciamo che l'unica cosa che tu puoi fare realmente a un certo punto sono le scelte. Ogni, sì, ogni esatto, situazione ti si presentano due scelte, o una cosa o un'altra. Esatto. No, in realtà e non quelle in teoria non sappiamo scelte quanto influiscano. Cioè, ah, non, dici? Non lo, no, non lo sappiamo, cioè, io non lo so, okay, devo dire, però okay, immagino di sì, perché perché sì, se considera che noi abbiamo sbloccato la metà degli achievement, significa che evidentemente c'erano tantissime altre cose da fare. Ah, ok, questo, perfetto. E allora bisognerebbe riprovarlo ricordandosi le scelte che sono state fatte, facendo cosa, il contrario. Esatto, cosa improbabile, perché insomma chi si ricorda. Oppure se Deborah ci giocherà e ci farà un video, magari vedremo se lei ha fatto delle scelte le cose diverse dalle nostre. Certo, sì, infatti questo dalle è nostre. Anche perché comunque io, a me è piaciuto, io mi sono divertita e secondo me non è così inquietante, no, e non lascia quella, perché io ho letto anche nelle critiche che alla fine lascia questo profondo senso di turbazione. In realtà noi l'abbiamo vissuto forse un po' diversamente, cioè sì, voglio dire, quando arrivi, cioè quando completi un po' la storia, è chiaro che poi fa tante considerazioni, però non è una cosa che oddio il dramma e tu dici oddio, cioè nel senso boh, non lo so, ma no, secondo me è un cioè sì, purtroppo quando poi si tratta dei bambini la sensibilità in qualche modo cambia, no? Anche se non so, per i giocatori è così, perché per i nerd, beh, i nerd, i bambini, beh, no, ma questi sono giochi, odiano. No, questi sono giochi dedicati, sono giochi dedicati a comunque chi vuole affrontare un'esperienza narrativa con un certo spessore, con una certa sensibilità. Tra l'altro anche il gioco precedente parlava di una bambina, quindi cioè evidentemente okay, è proprio un po' un tema che loro portano dietro. C'è questa sensibilità così latente, no? Questo senso comunque, questo senso di empatia, ecco, di empatia nei confronti della bambina. Non di Mr. Voice. No, di Mr. Voice. O di Benjamin. No, in realtà Benjamin. In realtà Mr. Voice è un personaggio complicato da decifrare. Non andiamo oltre, perché sì, poi dopo diventa un po'. Però comunque sì, empatizzi con Miss Fortune, perché poi alla fine lei è costruita così, cioè nel sì, senso tu la vedi come Pollyanna che va in giro e butta i glitter, no, a destra e manca. Non possiamo dire niente se la bambina muore, ma secondo me non muore. Vabbè, però se tu dici non posso dire niente, no, non dici niente, non devi neanche leggere il messaggio. Non possiamo dirlo. Va bene, va bene, purtroppo, sì, purtroppo c'è sempre questa questione di ogni gioco, della bambina che muore, c'è sempre una bambina che muore da qualche parte, quindi... No, no, non è Pollyanna, che agonia, no, non è assolutamente stile Pollyanna, anzi, Little Miss Fortune, essendo... No, vabbè, forse Pollyanna ha fatto un esempio diverso. Lei ha 8 anni. Essendo, diciamo così, il personaggio disegnato un po' su me stessa, ti posso dire che alla fine ti regala un sacco di positività. E questa è... È una buonissima cosa. Guarda, l'unica cosa che possiamo dire, secondo me, è il fatto che, essendo una bambina che affronta un problema o dei problemi, come tutti i bambini reagiscono creandosi un mondo tutto, esatto, creando, e quindi praticamente lei ogni tanto svampa sti brillantini così. Cioè, se tu clicchi su di lei praticamente svampa i brillantini, sì, insomma, esatto. Per lei è come se fosse un tocco di magia che in qualche maniera ammorbidisce la realtà, insomma, esatto, esatto. E vabbè, direi che abbiamo detto tutto, perché sennò poi andiamo nello spoiler. No, no, è vero, hai ragione. Non avevo considerato il fatto che c'è gente che non l'ha giocato, sai, perché è uscito. C'è gente che non l'ha giocato. Quindi alla fine giocatelo, perché, e fateci sapere, giocatelo, perché ci teniamo, insomma, a sapere. Il prossimo gioco che toccherà a Michela è Oxenfree, e quindi preparatevi, perché Vedrete delle belle. Lei non sa. Ma no, in realtà non è, cioè, più o meno siamo sullo stesso impronta, okay. Solo che la storia è un po' più evoluta, un po' più matura, insomma, diciamo così. Va bene? Va bene. E allora metto questa canzone che non c'entra niente, cioè, nel senso, non è connessa al gioco, però alla fine la richiama, perché la canzone si chiama Miss Fortune. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.